Tempo di Sport con Carlo Genta. Franco Piantaneda in redazione, Mauro De Angeli in regia. Cari amici, oggi sciallo, ve l'ho annunciato ieri e mantengo le promesse come al solito. Dopo il calcio scommesse, dopo il calcio mercato duro e l'allenatore dell'Inter e i capricci di Hamsik e tutte queste cose, oggi finalmente mollo tutto, vado al mare e vi porto con me. Perché vedete, mi è venuta la bizzarra idea di insegnarvi a fare surf ascoltando la radio. Non so se ci riesco, ma io ci provo. Quindi ogni mercoledì, perché mercoledì, come sapete, è un giorno carico di suggestioni, no? Per questo sport. Ogni mercoledì, per tutto luglio, dentro questa scatola di giochi che è A Tempo di Sport, troverete una pillola, giusto 5 minuti di lezioni di surf, in modo da ingannare il tempo nel migliore dei modi in estate, in riva al mare, e arrivare preparati a novembre quando, ve l'ho già detto, non so se vi ricordate, non so se ve lo sapete, ripeto, a novembre quando a Levanto arriveranno in Liguria, arriveranno i campionissimi di questo sport per giocarsi il titolo del mondo nelle nostre acque dal 20 al 30 di novembre. È la prima volta che in Europa viene assegnato il titolo mondiale di surf longboard e oggi per parlarne ho due amici. Uno è già venuto a trovarci, è una faccia molto nota, è un attore ed è un malato di surf, Sergio Muniz. Ciao Sergio. Esatto, hai detto proprio bene, malato di surf. L'altro invece è un atleta italiano del Team Beer che sarà in acqua in questi mondiali ed è Marco Boscaglia. Ciao Marco. Ciao Carlo. Allora, da dove partiamo ragazzi? Marco, da dove vuoi partire ad insegnarci a fare surf? Beh, partiamo dalla base del surf, che sono le regole sì. Di questo bellissimo sport, da prima di entrare in acqua, quindi tutta la base teorica e le regole che vanno rispettate quando entriamo in acqua. Innanzitutto lo scopo di questo sport è stare in piedi su delle onde e fare, più si va avanti e più si imparano a fare delle manovre, acrobazie, possiamo dire, per i non esperti. Ci sono moltissime regole per entrare in acqua che vanno rispettate, dalle precedenze, per esempio il surf, cioè per partire su un'onda non è che chi arriva sul picco, sulla line up, può prendere e partire sulla prima onda che arriva, ma deve aspettare delle precedenze. La persona che parte più esterna rispetto al punto dove rompe l'onda è la persona che ha la precedenza e quindi può partire. Però non può neanche fare molti i giri e rubarla la precedenza. Io so che Sergio è bravissimo a rispettare le regole. Io ci provo, anche se a volte diventa difficile quando si è in 300 in acqua, come per esempio il weekend scorso a Levanto. Diventa difficile perché non sai chi ha la precedenza e chi non ce l'ha, perché veramente sono tante persone in acqua. E quindi bisogna infatti essere, intanto, tutti conoscano le regole, la cosa più importante in assoluto, perché così come nessuno andrebbe, anzi nessuno, qualcuno magari lo fa, ma non si deve fare, comprarsi gli sci e andare a buttarsi dalla pista nera o semplicemente andare a sciare senza aver fatto un piccolo corso, un qualcosa, non si dovrebbe neanche entrare in acqua. Quindi quattro cosette, non è difficilissimo, però diciamo ci sono delle regole da rispettare per non farsi male, per non far male agli altri e per godere anzi di uno sport bellissimo, uno sport davvero fantastico. Sì. 800 24 00 24, vostro numero verde se avete qualcosa da dire, se avete qualcosa da chiedere, se volete partecipare, se volete surfare con noi. Come avete cominciato? Marco, tu come hai cominciato? Poi ce lo facciamo raccontare da Sergio, Io quando ero piccolo andavo allo stabilimento balneare di mio zio vicino Ostia e lui mi ha sempre spinto comunque ad iniziare con il surf finché mio padre non mi ha comprato una tavola, una shortboard con cui ho iniziato, Ma la mia passione fin da piccolo è stata per il longboard, perché comunque mi affascinava questa tavola lunga. Che è la tavola lunga, quella di un mercoledì da Leoni, è quella che sarà Bravissimo. protagonista dei mondiali, che prima ho già detto una sciocchezza, sono dal 10 al 20 novembre, non dal 20 al 30, perché poi 10, arrivano lì e sono esatto. finiti tutti a casa. Esatto. 10 al 20. E ho iniziato che avevo 7-8 anni. Poi mi è stata rubata quella tavola e per gli anni successivi sono andato con il body, la tavola quella piccola che usa sdraiati. E poi nel 2006 mi è stato regalato un longboard 10 piedi della Bic che sono riuscito anche a distruggere e da lì è iniziata la passione. Sergio? Allora, il mio è stato un pochino più semplice, nel senso che io, vabbè, a casa mia si faceva surf un po' da sempre, no? A Bilbao, Casa tua però non ho Bilbao. mai fatto surf a Bilbao fino a che non ho compiuto 20 anni, sì, più 20 anni, e sono andato in Sudafrica. E in Sudafrica ho visto che era uno sport così, che tutti facevano, era la regola, e quindi insieme a un amico di lì, del posto, siamo andati a Musenberg, una spiaggia che c'è vicino a Città del Capo, piena di squali, però bellissima. Ovviamente le squali non le ho mai visti, dicono che ci sono, io non le ho mai visti, e mi hanno insegnato un pochettino, no, a farlo. Quella giornata ha cambiato la mia vita, ecco. Ditemi una cosa però, io adesso non sto a dire quanti anni ho, ma tanti, più del doppio di quelli che avevi tu quando hai cominciato. Se voglio cominciare, cosa che farò? Sono vecchio? No, non credo assolutamente. Io credo che si può iniziare a qualunque età. Ovviamente, se vuoi vincere un campionato del mondo, sei vecchio. Sì, Sì, certo. questo lo lascio Sono vincere a vecchio pure lui. io. Anche io sono Vecchio. No, però per iniziare, anzi, no, no, è uno sport Cioè, che. a tutte le età comunque Ovviamente. puoi provarci, insomma, se sei in forma Assolutamente puoi sì. provarci. Sì, se sei in forma puoi provarci. Se vuoi metterti in piedi, basta che c'hai le gambe e un minimo di equilibrio e riesci a nuotare un pochettino. Il resto è impegno, molto impegno, perché comunque, vabbè, un minimo ci vuole. Assicuro. Surfare tra le onde del mercato anche oggi, perché ci sono cose da capire e da raccontare. Mare chiaro, tutti al mare, a mostrare le chiappe chiare che scrive Max da Trieste. È Amsic il personaggio del momento. Potrebbe essere un tuo datore di lavoro, questo signore. Allora facciamo un test. Supponiamo che io le offra 1 milione di dollari per una notte con sua moglie. Direi che sta scherzando. E se io non scherzassi, che cosa direbbe? Le direbbe di andare al diavolo. Comunque una cosa è chiara. Quando De Laurentiis dice che qualcosa è incedibile, quando questo qualcosa, tra l'altro, è una persona professionista, umana, che gioca nel Napoli, che ha dato molto al Napoli, ma che ha preso anche da Napoli e dal Napoli. Io, quando dico che Amsic è incedibile, dico il vero. Poi, se arriva, come in un famoso film, un'offerta di quelle, e non era un film alla Padrino, ma era un film, credo, col sesso, che non si può rifiutare perché è talmente, Proposta indecente, diciamo, no? Demi una Muriel. proposta indecente. E allora noi qui siamo non tanto per accettare, ma per ascoltare. Perché io non ascolto mai nulla, ripeto sempre lo stesso ritornello. Cacci soldi, cacci soldi! Ti piace De Laurentiis, Sergio Muri? Diciamo che vabbè, questo della proposta indecente, infatti a me mi sembrano tutte proposte indecenti nel calcio perché si parla davvero di tanti, tanti soldi. Sì. Quindi un po' tutte, diciamo, tutti questi movimenti di calciomercato mi Ma sembrano un po' mi indecenti. scandalizzo poco perché anche nel mondo del cinema girano tanti soldi, cachè Assolutamente molto, sì, molto infatti. ricchi, insomma sono lavoratori infungibili, no? Sono artisti quasi. Assolutamente, no, infatti sono artisti anche loro, credo di sì, i calciatori, infatti, perché arrivare a quel livello lì io credo che anche un pochettino di tuo devi mettere, ecco, non basta con la forma fisica, È ecco. sicuro. Poi tu Athletic Bilbao, Athletic Bilbao, grandissimo. adesso che è retrocesso anche il River Plate, è uno dei 9 club al mondo a non essere mai retrocesso. Sì. La bandiera basca, Però noi non abbiamo mai piantata sul usati, mondo. diciamo, in un certo senso, diciamo, tra virgolette, stranieri, diciamo, persone che non siano, diciamo, legate al Paesi Baschi, o Sì. nate lì o comunque di origini basche. Quindi, Dai, quello credo siamo gli unici al mondo, ecco. Ah, sicuro, sicuro. Per chi tifi tu, Marco? Roma. A Roma? La Roma degli americani? Già. Ma il pupone è sempre così inamovibile per chi tifa Roma? Ma sì, è un simbolo, di Roma e... Ma tu hai fiducia in questi americani che sono arrivati, sembra non abbiano, boh, grandissime credenziali, chi lo sa? Chi lo sa? Non so, gli americani giocando al calcio non sono stati mai, grandiosi. Ecco. Hanno altre idee, grosso modo. Io però voglio sapere, Mare Chiaro, che fine fa? E allora anche oggi devo informare gli ascoltatori. C'è Francesco De Luca, che non so se fa surf, se è un surfista, ma è una penna storica del Mattino di Napoli. Ciao Francesco. Buongiorno a tutti voi. Non faccio surf. No. Ti insegniamo noi. Il fisico non me lo consentirete. Ti portiamo noi con Sergio Muniz e Marco Boscaglia. Senti, ma Mare Chiaro invece oggi, il borsino qual è? Ma guarda, il borsino è stabile, nel senso che credo che oggi, ma il discorso varrà anche per i prossimi giorni, non credo che vi saranno incontri tra il Napoli e il Milan per approfondire questo discorso della cessione di Hamsik. Credo che ci vorranno dei tempi abbastanza lunghi. I segnali sono partiti, sono inequivocabili. Da un lato Hamsik, che dice vorrei avere l'aspirazione di poter giocare in un grande club ancora più grande del Napoli, e quindi ovviamente un messaggio verso il Milan, sì. E Laurentiis che parla di una proposta indecente. Arrivasse la proposta indecente, ci siederemo a proposta indecente che sono 40 milioni di euro, giusto? Sì, grosso modo, io credo che per non meno di 30-35 milioni, che poi tra l'altro è la cifra che è prevista sulla di rescissione del contratto di Hamsik, perché i giocatori del Napoli, d'altra parte, come molti giocatori di molte società, hanno una clausola di rescissione prevista nel contratto, una cifra per poter lasciare la società, e sono cifre alte quelle che riguardano Cavani, che riguardano Hamsik, che riguardano la Lazio. Senti, chiedo scusa, Cavani non ha la clausola di rescissione. Cavani no. Ce l'hanno la Lazio ed Hamsik. Ma un altro discorso, tu che conosci molto bene la napoletanità, se me lo consenti, dopo queste dichiarazioni, onestamente, Hamsik può tornare a giocare a Napoli come nulla fosse? Guarda, lui non ha espresso alcun giudizio negativo nei confronti del Napoli e di Napoli, e mi sarei meravigliato del contrario, perché la gente di Napoli è stata particolarmente calorosa e affettuosa nei confronti di questi ragazzi come Lavezzi, come Hamsik, come Gargano, che hanno cominciato questo percorso nel 2007 col Napoli dopo la promozione in Serie A. D'altra parte loro hanno ripagato l'attenzione, la fiducia della società, della tifoseria, con ottime prestazioni in questi anni. Detto questo, mi sembra che lui abbia fatto una riflessione, come dire, professionale. Nel discorso professionale c'entra ovviamente, da un valore molto importante, l'aspetto economico. Sentivo appunto prima che parlavate dei calciatori, professionisti, artisti, chiaramente tutto ha un prezzo, e su questo De Laurentiis, che è uomo di calcio e uomo di spettacolo, insomma, mi sembra che sia il più informato e il più documentato possibile su argomenti simili. E quindi, insomma, io credo che se Hamsik restasse a Napoli sarebbe tutto come prima. Insomma, d'altra parte, questo è giusto sottolinearlo per gli sforzi che il Napoli ha compiuto, sì, in questi anni, in particolare nell'ultima stagione. Il Napoli parteciperà alla Champions League e Hamsik ha un signor contratto, quindi non lascerebbe qualcosa di insignificante. Certo. Ti ringrazio, Francesco. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a presto, Francesco De Luca del Mattino. Sergio, ma da abitante del nostro paese, anche sportivo, da 15 anni ormai, tutta questa fissa degli italiani per il calciomercato, che cosa è un popolo di sognatori, forse è l'ultima frontiera del sogno, o no? Succede lo stesso anche in Spagna, ma non così tanto, dai. Abbastanza, diciamo che siamo malati del calcio quasi quanto gli italiani. Assolutamente sì. Diciamo che, non lo so, credo che ormai sia un modo di far parte, no? Mentalmente di qualcosa, diciamo, di piacevole come il calcio, no? La gente, diciamo, uno cresce con un pallone in Italia, sì, e anche in Spagna, giocando con un pallone, no? Sì, quindi sì, sì. con un pallone per strada. A chiunque credo che le sia passato in mente, no, di diventare magari calciatore, ricco, famoso, bello, giovane, con le veline e robe del genere, no? Però... Marco Boscaglia no, però. Calcio. No, io, no. Io vengo dal basket prima di tutto e poi che dal mi sembra una splendida idea. E sì, e poi anche dal surf, comunque non mi sono mai avvicinato al calcio. Nonostante tutti gli amici, mio padre che segue molto il calcio, però non è mai stata la mia passione. Ti piacciono altre cose. Sì. Ti piacciono altre cose. Torniamo alle lezioni. Devi fare esattamente quello che ti dico, va bene? Va bene. In piedi. In piedi. Se ti alzi dritto, caschi subito dall'altra parte. Su, proviamo un'altra volta. Di nuovo, devi rifarlo. Ti ho detto di rifarlo, in piedi. Ti devi tenere basso, sennò ti ritrovi la tavola sui denti. Hai trascinato il ginocchio stavolta, così finisci spazzato via. E trascini anche il piede, finirai in pasta ai pesci. Tutti e due i piedi devono arrivare sulla tavola allo stesso momento. Ecco così, ci siamo. Questo è sempre. Da uno dei miei film preferiti, Point Break, così vi voglio ragazzi. Point Break, pensavamo che era un altro. No, Point Break. Avete sentito la lezione? È condivisibile? Sì, cioè... sì, assolutamente sì, condivisibile. Tutti e due i piedi allo stesso momento sulla tavola è una buona cosa, ecco, sarebbe consigliato. A farci, a riuscirci. Abbiamo anche degli ascoltatori in linea, Massimo Provincia di Milano, William da Cesena. William, si è prenotato per primo e quindi con lui parliamo per primo. Alla precedenza? No, è caduto? Che è successo? È volato dalla tavola. Massimo, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno, dica. Pronto? Sì, la sento. Oh, buongiorno, buongiorno gente, a lei, a Munizia Boscaglia. Una domanda sul surf, tra parentesi piacevole, in mezzo sempre al calcio. In parte mi ha anticipato lei sul discorso dell'età, quindi 40 anni, 2 metri, 125 kg. Ah, però. È possibile praticare surf da pivottone di maschio? Guarda, io sono stato. Prego. Vai, Sergio. No, dicevo che io sono stato alle Hawaii, per esempio. Avevo visto persone che sicuramente i 140 li sorpassavano e surfavano come se fossero delle ballerine di danza classica, veramente. Era una roba impressionante. Sì, ovviamente, sicuramente avevano iniziato quando erano piccolini, quindi per arrivare a quel, diciamo, a quella grazia, diciamo, sulla tavola. Si sono sicuramente voluti anni, ma non credo sia, diciamo, insormontabile il fatto di essere alto o pesante, ecco. Io sono 1,90, 83 kg. E Marco viene dal basket e ha fisico da cestista. Quanto sei alto? 1,95. 1,95, per chili? 88, più o meno. Quindi anche con stazze come la tua, Massimo ha chiamato, decisamente diversa. Però è possibile, cioè non ci sono limiti fisici da questo punto di vista. No, limiti fisici no, comunque anch'io ho visto, come ha detto Sergio, io nel mio viaggio in California ho visto un signore, sarà stato alto all'incirca 1,90 m e sarà pesato più di 120 kg perché aveva una pancia gigante, però ci sono anche delle tavole fatte apposta per andare sulle onde anche di misura più piccola e con qualsiasi fisico. Io e i miei amici spesso dormivamo in macchina sulla spiaggia e il rumore del mare ci svegliava. E così all'alba sapevamo già che sarebbe stata per noi una grande giornata. Beh, questo l'avete riconosciuto. Certo, vecchi tempi che mi sa che non torneranno più, adesso c'è internet, non c'è bisogno di dormire in macchina. Un mercoledì da Leoni. Allora ragazzi, rispondiamo. C'è Dino da Bologna già in linea, 800 24 00 24, altro ascoltatore. Le due domande che ho anticipato prima: ma a Levanto ci sono le onde giuste? Sì, ci sono le onde giuste di buonissima qualità. È la domanda qualità più ricorrente. Ovviamente, diciamo, non superano di solito i 4 metri, perché nel Mediterraneo non ci sono onde che superano i 5 metri, quindi chi è che vuole onde di più di 4 metri? Io, dei 4 metri in giù, sono contento. Nel senso che poi lì già diventa un altro sport, diventa sport di onde grosse, quindi non... neanche le competizioni di questo tipo si fanno con sopra i 3 metri, ecco, diciamolo così. E poi che altra domanda era? L'altra era se per uno che fa snowboard è più facile cominciare, se ci sono delle similitudini tra lo snowboard e il surf. Una volta che hai imparato a metterti in piedi, sì, assolutamente sì. Però finché non arrivi a metterti in piedi o a prendere l'onda, no, nel senso che lì si somiglia più al nuoto più che altro, perché per prendere l'onda ci vuole nuotare tanto. Molta gente infatti quando inizia si mette lì, dice vabbè, io sono sulla tavola, adesso arriva l'onda e mi spinge. No, se tu non hai una inerzia è molto difficile che l'onda ti spinga. L'onda allora ti prende e ti porta su e poi giù, ecco. Quindi ti capovolgi e ti inchiodi. Allora Marco, abbiamo parlato delle precedenze all'inizio, ci sono delle regole da rispettare per entrare in acqua, dei corridoi, anche ne parlavamo a microfoni spenti, anche surfisti professionisti devono conoscere le condizioni del mare in cui vanno a surfare, giusto? Certo, perché comunque ci sono molti posti dove ci sono delle correnti, delle rocce semi affioranti che magari possono creare intralcio durante la surfata, ci sono dei punti magari dell'onda dove sarebbe meglio uscire quando sta per rompere, quindi comunque sarebbe sempre meglio chiedere delle informazioni quando si va in uno spot nuovo che non si conosce, sempre chiedere ai locali Sì, informazioni quindi sulle condizioni di quel tratto. Allora, poi andiamo avanti. Una volta apprese queste regole, da dove partiamo? Tavola? Dalla spiaggia, magari. Dalla spiaggia, sì. Partiamo dalla spiaggia sul tratto. Tavola, naturalmente longboard. Naturalmente longboard, tavola lunga. Che per iniziare è la cosa migliore. Quanto è lunga e quanto costa? Allora, la lunghezza parte dal 9 piedi, sì. Quindi intorno tra i 2,60 m e i 2,70 m all'incirca. Sì. E non ha una lunghezza, un massimo di lunghezza, comunque vanno dai 9 ai 10 piedi come la normalità dei longboard. E prezzo dipende dalle tavole, si può partire dai 400-500 euro arrivare a 3.000. Tanto. Sì. Un po' il discorso che vale per le biciclette, no? Le biciclette. Da corsa. E dunque, partiamo dalla spiaggia, che facciamo? Allora, prima di tutto c'è da fare un corso teorico e pratico, ma a terra, prima di entrare in acqua, dove ci sono tre movimenti. Dopo la remata ci sono tre movimenti che vanno compiuti prima di alzarsi. Sì. Il primo è con le braccia tese e le gambe comunque ancora distese. Il secondo si alza il ginocchio del piede, cioè il ginocchio avanti. Sì. E con il secondo si alza anche la gamba dietro e si tengono dritte le spalle verso la riva. Sì. Questi sono i primi tre movimenti base. Tre movimenti base per riuscire ad alzarsi sulla tavola. Muscoli interessati quali sono? Cioè, quali muscoli vengono usi di più? Braccia, spalle, all'inizio molto il collo, perché comunque è una postura non naturale del corpo e quindi fa molto male il collo, perché comunque la testa deve stare deve stare molto alta quando si rema e quindi dà fastidio anche un po' il collo. Però i muscoli più interessati sono le spalle e le braccia. E gli addominali comunque, è uno sforzo anche addominale quando ci alziamo. Quindi avrete capito perché i surfisti sono così fighi, no? Cosa fai, no, col dito? Fa il bravo. Dino da Bologna, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Io voglio fare questa domanda perché ho nel cuore da tanti anni, da quando avevo circa 18-20 anni, che vidi per la prima volta un mercoledì da Leoni, che penso abbiate visto tutti. Volevo sapere se... come film cult o cult, come si dice insomma in inglese, vi è rimasto nel cuore anche a voi e come a me ha segnato diciamo la vita. Io purtroppo sto sull'Appennino toscano-emiliano, non posso fare surf più di tanto, però se vi ha segnato come diciamo valori dell'amicizia e tutte quelle cose che mi hanno insegnato in quel film, e oltre all'aspetto romantico con Beer che preparava le famose tavole, insomma mi è rimasto tutto nel cuore. Volevo condividere con voi questa cosa e basta, insomma, fine a se stessa, ecco. Fine a se stessa, molto carina. La comunità del surf, com'è la comunità del surf? Allora, qua in Italia è molto basica, nel senso che la comunità del surf è fatta di piccoli gruppi, ma l'Italia in generale è un paese molto campanilista, come dicevo, infatti qualche ora prima con altri amici, e quindi anche nel surf, diciamo, ognuno si tiene stretto, no? Diciamo, i surfisti di Levanto siamo lì, no? Ma l'abbiamo visto anche nei film, no? Che ci... anche nei film, anche in Point Break c'è il gruppo dei bravi, il gruppo dei cattivi, sì. Sono comunque gruppi di persone anche molto chiusi, se vogliamo. Sì, diciamo che chiusi, nel senso che c'è qualcosa che li accomuna, no? Quindi trovarsi poi in acqua a condividere queste emozioni, perché il surf è uno sport molto emozionante. Ti dà delle emozioni che credo che nessun altro sport riesca a darti. Uno può dire, vabbè, ma lo snow, ma lo skate. No, diciamo, personalmente va al di là, per me va al di là. E quindi quando si condividono delle esperienze così importanti, si creano, si affiattano questi gruppi, no? E soprattutto quelli che uno conosce, con i quali si trova magari anche in acqua. Ecco. Senti, e invece la Marco Boscaglia, la comunità dei surfisti professionisti invece com'è? Dipende, io sono stato in California 2 anni fa e ho visto il campionato del mondo di shortboard, il WCT. Sì. Con tutti i professionisti, il panorama d'élite del surf mondiale. Sono molto, molto disponibili e molto simpatici. Sono riuscito a fare 2 chiacchiere con surfisti come Joel Parkinson, Mick Fanning, Pat O'Connell. Sono stati molto gentili, hanno avuto quei pochi secondi di chiacchiere, li hanno fatti con il sorriso. Comunque sono ragazzi normalissimi. Quindi non fanno le superstar. No. Senti, tu hai avuto un passato da cestista. Sì. Pensa che c'è chi ha un presente da cestista e un futuro da surfista. Alex Ranuzzi, che è una guardia surfista della Libertas Forlì, gioca in Lega 2, e tra l'altro so che con lui condivido un idolo, cioè Dennis Rodman. Alex, buongiorno. Buongiorno. Hai visto? Oggi ho Sergio Muniz, surfista e attore, o attore surfista, non ho ancora capito, e Marco Boscaglia, surfista professionista. Tu quando vai a fare surfista professionista? Molli il basket e vai con loro? No, io sono poi un dilettante, io sono un surfista della domenica, oppure come diceva Don Wilson in uno degli ultimi suoi libri, L'inverno di Frankie Machine, uno surfista proprio dell'ora, quella dei lavoratori, quella dove ci sono quelli che lo fanno poi per diletto. Quelli per, sì. Ma come ti è nata la fissa? Come? Come ti è nata la fissa del surf? Allora, mia madre, quando io ero molto piccolo, andavamo al mare giù in Riviera Romagnola, lei faceva windsurf. E avevo 3 anni, io mi portava con lei sulla tavola, io mi aggrappavo lì alla vela, mi portava sulla tavola e poi dopo, pian piano, un po' ascoltando Jack Jones, un po' comunque affascinato da quel mondo lì, ho iniziato a un'estate, mi sono deciso di proprio, quest'estate vado qua in Italia, cerco un posto dove mi possono insegnare a surfare. Sono andato con un mio carissimo amico Fabrizio ad Anzio, che lì ci hanno un po', sì, con dei long di 11 piedi, ci hanno un po' insegnato, sì. Ci hanno introdotto questo sport. A che livello sei adesso? Io alla fine lo faccio con la mia tavola da 4 anni, però il problema mio è che d'inverno non mi posso, purtroppo non posso fare più di tanto, perché se la società per cui gioco lo viene a sapere, oppure metti caso mi faccio male, oppure mi prendo, più probabile che mi prenda un raffreddore visto le temperature che ci sono d'inverno, rischio di andare un po'. Ti fanno un mazzo così, sì. Esatto. Normale. Sì, quindi d'inverno faccio fatica, però tipo quest'anno, appena finito il campionato, l'ultima giornata l'abbiamo avuto il 4 di maggio, io il 7 ero a Fuerteventura, sta una settimana lì. Senti, c'è qualcosa che vuoi chiedere? C'è qualcosa che vuoi chiedere a Marco Boscaglio o Sergio Muniz? Ma guarda, io sono molto curioso per quanto riguarda tutti i luoghi che hanno visitato, di cui hanno parlato prima, perché mi piacerebbe tantissimo fare proprio andare in quei posti tipo San Diego, California in generale, ma anche Hawaii. Allora adesso ti faccio dire dove hanno trovato le onde più belle nella loro vita. Ma guarda, a me basta l'ondina di un metro e mezzo con long, in surf relax, proprio non c'è problema, nel senso non sono molto esigente. C'è Marco Boscaglia che annuisce. Grazie Alex, grazie, ascolta, grazie le onde sono in questi posti, Sergio. Allora, per me, io non avrei nessun dubbio a dirvi sicuramente Bali e la parte, diciamo, dell'Indonesia. Le onde migliori, però ovviamente forse per iniziare no. Ecco, per fare l'onboard magari rilassato così, non lo so, forse Malibu. California. Malibu. Sì, secondo un me grande sì. classico perché comunque dalla richiesta che ha fatto lui è l'onda che si addice di più, un metro e mezzo, onda lunga, molto, sembra lenta, però comunque ha varie sezioni, è divertentissima e infinita. E poi la gente è cordialissima, si trova di tutto, dai delfini alle foche, gente di 70 e passa sì, anni in acqua che ti dà delle lezioni di vita. Delfini, le foche, poi... Ah, ecco. Volevo ben dire, basta. Voi non avete sentito, io ho visto la faccia che ha fatto e potete ben immaginare. Ti è mai capitato di aver paura? Sì. L'ultima è stata durante il mio viaggio in Marocco quando sono andato a fare l'europeo e una giornata normalissima, non erano onde molto grandi, c'era circa un metro e mezzo, due. Sono andato in Hang 5 su un'onda, torno indietro, la tavola mi inizia a ballare, scivolo, l'onda mi porta sotto e non riuscivo più a tornare su. Mi sono calmato, ho aspettato un secondo, vedevo che comunque la schiuma mi portava, continuava a spingermi sotto. Dopo un po' fortunatamente sono uscito, ma con il fiato mozzato e... È un'esperienza brutta da raccontare, fortunatamente. E d'altra parte sono cose, insomma, quando cadi devi anche saper riemergere, saper cadere e uscire dall'acqua. Sì, credo più che altro sia... tranquillizzarsi sott'acqua, aspettare che tutta la risacca e l'onda passi. È un po' il principio dell'apnea, è mentale. Sì. Uno si deve rilassare, consumare il minimo possibile l'ossigeno, quindi la paura consuma molto ossigeno, quindi più ti rilassi meglio è. Tu, Sergio, paura? Tante volte, ma fa parte del gioco, no? Credo, diciamo, anche a Levanto, per esempio, eravamo caduti, ero su un'onda, c'è stato uno che non ha rispettato la precedenza, è saltato e ci siamo aggrovigliati con le tavole, sono finito sotto, e addirittura aggrovigliato sotto il suo culo, quindi scusate la parola, sì, però sì. Lui che cercava di uscire e io sono incastrato sotto di questo qua e ho iniziato a darle dei pugni perché si togliessi e fargli capire che io ero sotto aggrovigliato con il liscio. Lì ho pensato, ecco, qui rischio. Invece poi vabbè, questo qua finalmente si è tolto un pochettino, io sono uscito e l'ho detto un paio di cose, basta. Però di solito, vabbè, diciamo, se non ti ingrovigli con un altro è tutto, diciamo, concentrazione, sì. Rilassarsi, stare là sotto, lasciare che passi e poi trovare la uscita su. Sacco di ascoltatori, Roberto da Torino, Sandro, provincia di Firenze, Paolo da Barcellona, che sarà Pozzo di Gotto e non... No, Barcellona quella vera? Ah, però. Dunque, abbiamo quattro minuti rapidi. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. E a proposito del romanticismo del surf, volevo segnalare che ogni tanto in Liguria si rischia di finire a botte, perché quando non sei del posto non hai il diritto di prendere l'onda, devi dare la precedenza, devi fare attenzione a quando esci e ti passano sulle orecchie, quindi credo che l'amico ligure lo può confermare, o sbaglio? Sì. Allora, è quello che si raccontava prima, ovviamente non è che uno può entrare in acqua così senza saper cosa viene a fare, perché rischi di far male anche agli altri, no? Uno che per esempio ti molla la tavola di fronte, per esempio, perché vede l'onda, non sa bucarla, non sa magari attraversarla, e la prima volta molla la tavola e ti cade una tavola di 10 kg in testa, ti fa male. E perché? Perché questo qua non sapeva. E allora, diciamo, weekend scorso, diciamo, almeno 9 persone sono andate a pronto soccorso a Levanto perché volevano provare la maggior parte. E si può fare uno male, ovviamente. Se uno che normalmente va a surfare nella sua spiaggia di fronte a casa si trova, diciamo, circondato di tanta gente che vuole provare e non rispetta magari certe regole, certo, molto spesso si può arrabbiare. A Levanto non esiste localismo di solito, guarda, non ho mai trovato questo problema, e in generale io rispettando non ho mai avuto problemi da nessuna parte. Rispettando, ovviamente entro in acqua, aspetto la mia mezz'oretta guardando gli altri, vedendo un attimo che ambiente c'è e tutto, dopodiché piano piano inizio a prendere le onde. Però è quello, diciamo, conoscere un pochettino, chiedere, non essere arroganti, buttarsi in acqua tanto che sarà, ci sono i ragazzini di 12 anni che surfano, no? Sì, quei ragazzini di 12 anni magari sono già 5 che surfano. E ti fanno la riga. Sandro, esatto. Provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno, anzi buonasera a tutti, e un pollice e un mignolo a tutti, anche se questo si è rubato a surfisti, perché io sono un windsurfista, e volevo sapere, che è tanto e lo pratico, però come mai c'è questa, diciamo, non c'è tanto legame tra i surfisti e i windsurfisti, nel senso che loro ci guardano un occhio... Allora, questo è normale, su via, ovvia Sandro, è normale, quell'altri c'hanno la vela e questi non ce l'hanno, è normale che ci sia una certa rivalità da spiaggia. Grazie Sandro, io devo andare da Paolo che chiama da Barcellona. Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Barcellona, quella vera? Non Pozzo sì, di Gotto. Sì, quella vera, adesso sono temporaneamente in Italia, ma sono 10 anni che vivo a Barcellona. Sì, dica. Allora, due figli di 9 e 11 anni, quest'anno abbiamo un camper, andiamo nel nord del Portogallo, in Galizia. E volevo avere dei suggerimenti su... I miei figli fanno surf da 4 anni ormai, su dei posti buoni da visitare e potenzialmente dove si può anche fare kite, più o meno, non lontano. Vediamo se riesco a farle rispondere. Abbiamo un ultimo minuto da Sergio Moniz e Marco Boscaglia. Qualche suggerimento? Sono stato da poco, guarda, lì in Galizia, però a fare il Cammino di Santiago, quindi non a surfare. Senza tavola. A surfare non sono mai stato, però essendo spagnolo un pochettino conosco. E la verità è che ce ne sono tantissimi posti. Per fare kite non lo so, perché è una costa piuttosto rocciosa. Però per fare surf ce ne sono dei posti meravigliosi, soprattutto adesso che non fa tanto freddo. Certo, davvero tanti posti. L'acqua è fredda. Tu, Marco? No, io sono stato a sud del Portogallo, però comunque il Portogallo è molto ventoso, cioè se trova una spiaggia normale, non nella costa frastagliata, può uscire benissimo anche con il kite, le onde sono bellissime. Ragazzi, io vi ringrazio e veniamo a vederti a Marco Boscaglia dal 10 al 20 novembre ai mondiali di surf. Io ringrazio anche Max Catalani e Mauro Donis dell'agenzia Reset, che organizzerà questi mondiali di surf. Naturalmente mercoledì prossimo nuova lezione, io non ci sarò, vado al mare con la tavola sotto il braccio, però vi guiderò in questa lezione di surf, ve lo prometto. Grazie a Franco Piantanida in redazione e a Mauro De Angeli in regia. Ci sentiamo con la Tempo di Sport domani dalle 2 alle 3.